arrivati a questo punto, dopo quasi un anno di discussione, i lavoratori sono, dopo l'incendio dell'11 febbraio del 2025 dello stabilimento di Reggio, sono stati trasferiti assieme alle produzioni su vari stabilimenti della regione, in area modenese, in area piacentina e un pezzo anche a Mantova, e hanno sostanzialmente continuato a lavorare. E noi in questo anno abbiamo discusso di poterli ricollocare tutti quanti sugli stabilimenti e dei trattamenti economici che diciamo così sostengono la fatica aggiuntiva, che non è solo le 8 ore di lavoro ma anche il doversi spostare da una città all'altra, e poi una serie di strumenti che potevano accompagnare questo processo. L'azienda per 10 mesi abbiamo onestamente litigato sui trattamenti, ma non ha mai messo in discussione che ci fosse posto di lavoro per tutti i lavoratori che accettavano di trasferirsi, fino a che all'inizio di dicembre ha iniziato a ventilare un'ipotesi di esubero strutturale che c'è stata formalizzata giovedì scorso, l'8 di gennaio, nella quasi totalità, non hanno detto un numero preciso, ma hanno usato la formula, la quasi totalità del personale dipendente, che sono 164. 164 persone che appunto rischiano il posto e che non possono essere assorbite, quindi? L'azienda dice, cambiando completamente lo schema di gioco rispetto alla discussione fatta quest'anno, l'azienda dice che si è manifestato un calo delle commesse sul comparto delle carni bovine, collegato anche ai prezzi della materia prima. E Coop Alleanza 3.0, che è storicamente la società che acquista le carni dallo stabilimento di Reggio Emilia, avrebbe, rispetto alla quantità di carne ritirata nel 2025, ridotto di oltre il 40%. E che queste due dinamiche messe assieme determinerebbero un'impossibilità di assorbire i lavoratori, cosa che secondo noi è altamente discutibile. Certo, e ti chiedo se avete già parlato con i lavoratori in assemblee sindacali e qual è l'orientamento su come reagire a questa prospettiva. Le assemblee ne abbiamo fatte tante, l'ultima che ha chiarito questo scenario nuovo e drammatico è stata fatta lunedì sera, è stata un'assemblea che è durata più di 3 ore al Circolo Pigalle qui a Reggio Emilia, assemblea molto tesa, come si può immaginare, assemblea che ha però alla fine dato mandato sul piano che abbiamo presentato. In sintesi, cosa vogliamo fare? Vogliamo intanto, stiamo cercando con Regione e Ministero di mettere in piedi uno strumento di proroga della cassa integrazione, perché se no i giochi si chiudono al 10 di febbraio e quindi acquisire tempo è una variabile decisiva. Poi ragioneremo con l'azienda, sperando di trovare un'apertura sul fatto che secondo noi va costruito un accordo alternativo ai licenziamenti, ovvero ricollocazioni interne all'interno del gruppo. Parliamo di uno dei gruppi industriali dell'industria alimentare più grandi d'Italia, quindi lo spazio secondo noi per gestire significative ricollocazioni di personale ci sono, accordi che possano prevedere la mobilità da posto di lavoro anche presso aziende che non fanno parte del gruppo Cremonini, dunque trasferimenti collettivi, ricollocazioni interne ma anche trasferimenti collettivi all'esterno, e poi pensare come terzo elemento per i lavoratori che invece volontariamente accettino il licenziamento, un sistema che garantisca, finanziato da Inalca, la riqualificazione professionale, percorsi di outplacement, dunque di ricollocazione esterni all'azienda, un sistema di incentivi che possa, diciamo così, dare una leva economica ai lavoratori che decidono di fare questa scelta. Bisogna comporre questi tre strumenti per disegnare un quadro alternativo ai licenziamenti. Onestamente oggi non c'è allo stato, se te la devo dire per come stamattina, nessuna di queste tre questioni è